la versione horror questa? La mummia. Eh? La mummia. Ma che mummia? Ma i Maya mica c'ha le mummie, quelli sono gli egizi, drago. Chiedo asilo. Mancano giorni alla fine del mondo. Vabbè, però K, non possiamo cominciare il programma con una profezia così angosciante. Ma perché no? Stupida. Bisogna ricordarlo alla gente che si distrae e sì, si dimentica che fra 99 i giorni finisce il mondo. 99 i giorni, vabbè. Allora, affrontiamo questo gran giovedì, primo giovedì di questa terza edizione di Chiedo Asilo, con una notizia che farà vergognare un sacco di scrittori all'ascolto. Ah, sai quanti ce ne ha all'ascolto di scrittori? Beh, già, scusa, tutto il pubblico di caccia è... Ah, sono tutti scrittori. Sono scrittori, eh. Sì, comunque, scrittori. Gli scrittori all'ascolto... Appunto, però, pubblico di caccia. Ma adesso sta sentendo anche noi perché sono dimenticati di cambiare canale. Beh, allora, ascoltate bene quello che è successo al vostro collega Roger John Ellery, che non è James Ellroy, anche se a vederli scritti sembrano uguali, perché Ellery è Ellery e Ellroy è Ellroy. E invece Philippe Leroy è Philippe Leroy. Vabbè, certo. Ma scusa, ma Philippe Leroy non è... No, è vivo. Ah, vivo, ok, vivo. Vabbè. Allora, cosa è successo? È successo che questo Ellery, best seller in Inghilterra e tradotto anche qui in Italia, andava a scrivere sotto pseudonimo delle recensioni positive ai suoi libri mentre stroncava quelli dei suoi colleghi, ed è stato scoperto. E quindi figura da pirla del mese. È una cosa imperdonabile. Ormai Ellery ha perso credibilità con tutto l'ambiente editoriale, lettori compresi, insomma è un uomo finito. E quindi allora figura da pirla del trimestre facciamo. Sì, soprattutto siamo di fronte a un precedente che sta mettendo in imbarazzo tutti gli altri scrittori che hanno fatto la stessa identica cosa per anni e che agivano in tutta sicurezza grazie all'anonimato di internet. No, ma internet non è anonimo. Sembra anonimo, sembra, ma non lo è, in fondo non lo è mai. Quindi adesso mi immagino, che ne so, Baricco che ha paura che scoprano che i 689 commenti positivi al suo ultimo libro se li è scritti da solo, capito? Come esercizio anche di stile, no? Facendo così. Che ha pure gettato palate di cacca sui libri di Lucarelli. Aspetta però, perché non vorrei che a nominare certi pezzi grossi, aspetta, per non sapere né leggere né scrivere faccio partire il disclaimer. Il disclaimer, si chiama così, no? Ma cos'è? È questo. Questa è un'opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi e avvenimenti sono frutto dell'immaginazione dell'autore o sono usati in maniera fittizia. Ma cosa dici? Ma Baricco e Lucarelli non sono frutto della nostra immaginazione, drago. Esistono davvero. Io li ho visti tutti e due. Sì, ma no, noi col disclaimer ci siamo messi dalla parte della ragione, no? Drago! Sì, comandante K! Oh, ha telefonato quello lì biondo, quello Julian Assange. Julian Assange. Ma di nuovo, cosa voleva stavolta? Chiedeva asilo, drago. Ma quanto è insistente, non gliel'avevi già detto che eravamo pieni d'amore? Sì, ma lui fa finta di niente. È presente quando proprio ignorano quello che dici? Cioè, tu gli dici, mi spiace Julian. Ma qui siamo pieni. E lui? Ma un posticino per me, ma lo troviamo. Ma scusa, per me. Ma non gli hanno dato asilo lì in Ecuador, cioè nell'ambasciata ecuadoregna? Sì, ma non gli piace. Perché la cucina è monotona, no? Mettono il cumino, sì, ma gliel'hai detto che qui mangiamo solo finocchi cotti? Sì, ma lui dice che va pazzo per i finocchi cotti. Signor, sì. Lo vedi, no? Tutto slavato, così, è un po' un finocchio cotto anche lui. Sì, un po'. E non gli piacciono le donne ecuadoregne. Sì, lui preferisce le svedesi altro che i finocchi. Quindi alla fine cosa gli hai detto? Ho preso tempo. Vabbè, ma richiamerà, guarda che quello è così. E prenderò di nuovo tempo. Ma non possiamo, draghi, andare avanti così tutto l'anno con Assange che telefona, vuole asilo. Ma scusa, lui ha ragione, però dice: vi chiamate, chiedo asilo. Una volta che c'è uno che chiede asilo gli dite di no. Ha ragione. Ma lo sa il signor Assange che lotta all'ultimo sangue, c'è qui a Milano per un posto all'asilo? Lo sa? Eh no, credo di no. Ma non sa tutto di tutti questo signor Assange? Dovremmo mandargli un po' di file sugli così asili. Almeno lo scopre. Magari lui sa però quanti civili sono morti davvero in Afghanistan, capito? Però non sa della crisi dei posti negli asili milanesi. E allora sa, farebbe bene a informarsi prima di avere delle pretese, il signor Assange. Con tutto rispetto, sarà anche un genio e un martire, ma a me quelli che si fanno sempre ospitare da uno e dall'altro, non si decidono mai ad affittare un posto loro, alla lunga danno fastidio. Perché vanno, pensa a quei poveri ecuadoregni, anche loro. Ma quanto tempo lo sopporteranno? Non lo so. Lì biondo che va in giro con la vestaglia, chiede. Infatti, chiede il pollo qui. chiede da mangiare, diverso, chiede, cumino, sì, eccetera. Poi chiede queste poverine. Sì. E poi all'ennesima scenata contro il pollo cicciarron, sì, non so, lo consegnano alle autorità inglesi e lo fanno impalare in piazza. Per sfinimento lo consegnano, capito? Così come avrà trombato quelle due svedesi, per sfinimento. Ah, l'ha fatto così, certo. E loro dopo si sono vendicati accusandolo di stupro, di quello. Sì, perché il reato di sfinimento purtroppo non c'è. No, non c'è. Ci dovrebbe essere. Mancano 9 giorni alla fine del mondo. Beh, capo, adesso ogni 5 minuti è troppo dire ma che se non lo facciamo noi, Drago, non lo fa nessuno. Ma è meglio così, tanto la profezia mai è una boiata. Non si dai, sa mai, non si sa meglio mai. Attrezzarsi per non farsi prendere di sorpresa e poi io comincio a crederci. Tu cominci a crederci. Sì, perché i sintomi ci sono. La Grecia fallisce, i greci sono tutti incazzati neri. Ma cos'è questo? Come cos'è? Sono i greci incazzati. Sparta, sono degli americani che fanno i greci incazzati. Vabbè, il film 300, no? 300. 300, anzi. No, perché in greco sarebbe... Triakosies. Triakosies. Bravo, inutile che fai il pirla perché dovresti cominciare a impararlo il greco perché faremo la stessa fine. Vabbè, comunque non è vero, dai, è una boiata sta profezia, smettiamola con sti 99 giorni. Ma come? Batman, le stragi al cinema, in Russia arrestano le cantanti. Vabbè, sono cose che in Siria succede quel che succede, continua. No, per favore, basta così, alla faccia dell'ottimismo artificiale di settembre che avevo fino a qualche tempo e fa. E poi più si avvicina la data, meno se ne parla, non so se hai notato. Nel 2010 si parlava solo della profezia Maya, c'erano programmi, Voyager, quelle robe lì, e adesso nessuno ne parla più. Per mancano forza. 99 ma giorni. Scusa, ma perché la situazione reale peggiora sempre? Siamo impegnati in cose più serie, ma la profezia Maya. Ma è lì, ma la Drago, l'hai detto, la situazione peggiora per via dei Maya. Ah. Ma possibile che non lo capisca nessuno? No, sì. Adesso non ne parlano perché le lobby che controllano il mondo hanno deciso che non se ne deve parlare più. Ho capito. Capito? Sì. Ma io non accetto di piegarmi a loro. Conformismo. E quindi continuo la mia opera di overinformazione. Overinformazione? Tipo Assange. Sì, ma non piagnucolo tutto il giorno in vestaglia che non ne posso più del cumino. Ecuadoregno, ma ce l'hanno il cumino, non è una roba indiana. Messicana anche. Sì. Ma che bella bicicletta! Fortunato, te beato! Che regalo straordinario! Che peccato che funzioni all'incontrario! Tu pedali qui davanti, ti mostri, ti vanti, ma un idiota che va a piedi non lo vedi, mentre ora tutto il mondo guarda e aspetta un idiota su una bella bicicletta. Finita anche oggi. È finita. Dovete mandare i disegni, però, i ritratti di Julian Assange in vestaglia con il pollo cicciarron. Infilato super. No, con il pollo cicciarron e lui con la faccia disgustata perché non ha più voglia di mangiare il pollo cicciarron. Ma troppi dettagli così. Ah, basta Julian Assange. Assange. Chiede asilo, Etra di 24. E anche Facebook. Love.